questa è la ballata delle notti calde, di grandi progetti e di vecchie speranze, e termina all'alba con le strofe più amare, e attende il tramonto per ricominciare. Calda, non è sempre la stessa, è come una donna alla porta che bussa, e ti cerca sempre, come sempre ti trova, ed ogni volta una favola nuova. Mm-hmm.